Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È la puntata esattamente di metà settimana del 23 di maggio. Giulio Capperdoni vi accoglie, vi dà il benvenuto sulle frequenze di Rock FM, nel senso più lato possibile. Queste frequenze non da intendersi solo in quello tradizionale, le frequenze terrestri, ma ci sono anche quelle satellitari, non dimenticatevelo, se avete la piattaforma di Sky riuscite abbastanza facilmente a trovare il segnale di Rock FM, e poi c'è anche tutto quanto è possibile con internet, dallo streaming al podcasting, ovvero sia alla differita. I dettagli potreste trovarli su myspace.com/eclettica, per esempio anche quelli per sintonizzare il vostro decoder digitale. E lì sopra trovate anche le playlist di Eclettica, che altrimenti potreste ricevere nella vostra casella di posta scrivendo a giulio@radiorockfm.com e chiedendo, per favore, ovviamente, di essere iscritti alla lista nera. Jem, mio fratello, aveva quasi 13 anni all'epoca in cui si ruppe malamente il gomito sinistro. Quando guarì e gli passarono i timori di dover smettere di giocare a rugby, Jem non ci pensò quasi più. Il braccio sinistro gli era rimasto un po' più corto del destro. In piedi o camminando, il dorso della mano sinistra faceva un angolo retto con il corpo e il pollice stava parallelo alla coscia, ma a Jem non importava un bel nulla. Gli bastava poter continuare a giocare, poter passare o prendere il pallone al volo. Poi, quando di anni ne furono trascorsi tanti da poterli ormai ricordare e raccontare, ogni tanto si discuteva di come erano andate le cose quella volta. Secondo me, tutto cominciò a casa degli Ewell, ma Jem, che ha 4 anni più di me, diceva che bisognava risalire molto più indietro, e precisamente all'estate in cui capitò da noi Dill, e per primo ci diede l'idea di fare uscire di casa Boo Radley. Questo era l'incipit de Il buio oltre la siepe di Harper Lee. Somebody thought that it wasn't. Ad essere onesti, non saprei che cosa dire. Non sei molto diverso. L'aspetto non può mentire. Forse hai perso la testa, ma se hai perso la testa, non hai perso niente. Può passare un giorno in vacanza per

e si può fare la pace anche senza una droga, e si può essere un'alba anche senza una droga. Senza togliere la mano dalla manopola sinistra, vedo dal mio orologio che sono le 8:30. Il vento, anche a 100 all'ora, è caldo e umido. Chissà come sarà nel pomeriggio, se già alle 8:30 c'è tanta afa. Nel vento ci sono gli odori pungenti degli acquitrini ai margini della strada. Ci troviamo nella zona delle pianure centrali, piena di pantani, ideali per la caccia alle anitre. Veniamo da Minneapolis e andiamo a nord-ovest, verso i due Dakota. Questa è una vecchia strada di cemento a due corsie dove non c'è molto traffico, perché parecchi anni fa ne è stata costruita un'altra, parallela, a quattro corsie. Quando passiamo accanto ad un acquitrino, l'aria si fa all'improvviso più fresca, poi, appena oltre, si riscalda bruscamente. Questo era l'incipit dello Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, di Robert Minert Persig. О первом в мире полете человека в космическое пространство. There's no You have a dream, Paul? About who you're gonna be? Who I'm gonna be? Yeah. Aren't I going to be me? Il loro precedente disco, il primo disco ufficiale dal titolo Laughter Through Tears, uscito nel 2003, avevano colpito con la formula che mischiava elettronica a musica klezmer. Direi che la sintesi migliore l'avevano adottata con il nome del disco autoprodotto dell'anno precedente, Digital Folklore. Però il disco omonimo, appena uscito, Oi va voi, invece è deludente, come è stato anche sicuramente non entusiasmante all'ascolto il brano che ci siamo sentiti qualche minuto fa dal titolo Yuri. ovviamente sto esprimendo il mio giudizio assolutamente personale, ho un microfono in mano e lo uso. Quindi poi per riprendermi un po' sono andato su una delle sicurezze, una delle coperte di Linus di questa stagione di Eclectic, ovvero sia il brano dei Salentini Muzak dal titolo Oxygen, Opiates and Other Pale Ideas. E questa prima parte si chiude con i newyorkesi Battles.